Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dicembre 2009, ultima puntata di Focus Economia, puntata particolare perché, come promesso, con la borsa chiusa oggi non faremo la cronaca della giornata economico-finanziaria, avremo obiettivamente anche meno cose da dire, ma cerchiamo, come facciamo quando ci sono delle festività, soprattutto nei mercati finanziari, di allargare il più possibile gli orizzonti e i temi. Spesso portiamo libri in trasmissione, lo faremo anche oggi, ma oggi vorrei veramente salutarvi, dandovi appuntamento chiaramente al 2010, in un anno difficilissimo come il 2009, iniziato in maniera difficile, proseguito in maniera ancora più difficile, dove le borse si sono riprese, ma invece l'economia è peggiorata, l'occupazione pure. E insomma, non è stato facile neanche per chi vi parla raccontare giorno per giorno questo anno, come non furono facili gli ultimi mesi del 2008. Dicevo, mi piacerebbe chiudere con un po' di allegria, ma soprattutto di ironia. Lo faremo con quattro autori che alcuni, anzi cinque autori, scusatemi, che alcuni di voi conoscono, e lo faremo, spero perlomeno, in maniera leggera, cercando anche una volta ogni tanto in un programma di economia e di finanza di farvi ridere. E allora, come promesso, in questa fine di anno ci occupiamo di un tema che spesso abbiamo toccato, le strategie aziendali, consapevoli che in questo 2009 tutto è un po' cambiato, non solo i bilanci delle aziende, non solo la crisi ha portato, ahimè, a licenziamenti e a ridimensionamenti, a nostro avviso ha portato anche a un cambio culturale. Eh sì, si dice, o dice chi ha studiato, il cambio di paradigma, la rottura di modelli culturali. Beh, in realtà è avvenuto per i consumatori, ne abbiamo discusso molte volte con vari ospiti, quanto stanno cambiando i consumi alla luce della crisi e quanto non si tornerà più indietro. È avvenuto, o dovrebbe avvenire, anche all'interno delle aziende, soprattutto quando corporate, quando aziende con modelli anglosassoni. Molti luoghi comuni che hanno contraddistinto infatti in questi anni la finanza, ma non solo, e ce ne siamo accorti poi quando tutto è esploso, si è capito che certi geni che si riempivano di inglesismi, credit default swaps, leverage e quant'altro, in realtà non sapevano esattamente cosa stavano facendo, e ancora non sappiamo, visto che metà delle sofferenze degli investimenti finanziari a rischio sono ancora da mostrare nei bilanci, dicevo, ancora non sappiamo cosa hanno combinato e forse non lo sanno nemmeno loro. Alla luce di questo c'è chi ha iniziato anche a riflettere se dentro le grandi aziende, non solo quelle finanziarie, le corporate come si chiamano appunto in gergo, non vi fossero anche dei meccanismi di cortocircuito lessicale, di linguaggio, che in realtà, oltre all'effetto così un po' estetico, nulla portano e fanno girare a vuoto chi le usa. Gli inglesismi sapete quanto li amiamo in questo programma, li traduciamo ogni volta che possiamo, però in realtà dietro un linguaggio, per quanto stereotipato, per quanto fatto di luoghi comuni, purtroppo, o delle volte per fortuna, si nasconde un vero e proprio modo di pensare, di agire. E a nostro avviso la miopia che ha contraddistinto alcuni manager di grandi gruppi finanziari, ma non solo, in questi anni, è poi una miopia che è stata in qualche modo condivisa da tutta una struttura. Avete già capito a che cosa mi riferisco. Stiamo per presentare degli autori che in questa radio avete ascoltato. C'è un libro che ha pubblicato Sole 24 Ore, quindi ci facciamo anche pubblicità. Si chiama Zot, fulminati in azienda, l'innovazione, la crisi e l'ernia manageriale. L'hanno messa sul ridere e così vorremmo fare anche noi, anche perché appunto, visto il periodo, forse non bisogna sempre essere troppo seri, per quanto si stia parlando di cose molto molto serie. Allora, i cinque autori sono raccolti sotto lo pseudonimo di Jack O'Sales, sono di lavoro, nella vita, fanno i consulenti aziendali e quindi formazione, comunicazione aziendale, management, lavorano per Newton Management Innovation e hanno deciso di mettere così in audio queste frasi fatte, queste cose che tutti i giorni chi lavora in aziende, piccole o grandi, sente dire, ormai non ci fa neanche più caso, ma in realtà nascondono spesso il vuoto. E allora ringrazio per essere in studio con noi in questa puntata che spero divertente ma seria, Nicola Giunta, alias Nicola Centrifuga. Buonasera. Andrea Beretta, alias Marco sul pezzo. Buonasera. Patrizia Sorrenti, alias Marta Font. Ciao a tutti. Che sono i personaggi, alcuni dei personaggi che loro rappresentano, e Chiara Romersa, alias Bianca Schedula. Buonasera a tutti. Abbiamo diviso queste riflessioni, ripeto, che vuole essere faceta ma molto seria, in alcuni soggetti, alcuni temi. Il primo riguarda la gestione delle cosiddette risorse umane. Già a me il termine risorsa umana mi inorridisce, però insomma nelle aziende con un po' di dipendenti c'è sempre un responsabile di risorse umane, massimo rispetto, ci mancherebbe. C'è un gran parlare, un gran riempirsi la bocca delle risorse umane, e però anche insomma, un girare a vuoto su alcuni luoghi comuni. Ascoltiamo due degli sketch che abbiamo preparato per questo tema, sulla gestione delle risorse umane e da un lato anche su come si fa motivazione, altro termine molto usato, motivare dipendenti, motivazione manageriale, motivazione di gruppo. Sentiamo. Eccola, lo sapevo, l'ultima, ho finito le pastiglie per l'ernia iatale, ecco, ci manca solo sul pezzo che arriva. Dai, ernia iatale, dai, ernia iatale, cerca di muoverti per piacere. Da oggi in Zozzi cambia marcia. Adesso ti do i nuovi obiettivi commerciali dell'anno, eccoli qua. Ma che me li dai adesso, ad agosto? E certo, e magari a novembre un ritocchino per alzare l'asticella. Ecco, aspetta un attimo che qui leggo 180% in più rispetto al 2008, c'è un errore. No, non c'è un errore, sul pezzo non scherza mai, smettila di lamentarti, Centrifugo, e usa bene le risorse che hai. Non avevi quel giovane esperto, quell'alto potenziale, quel... Ma chi? Mario Pacco? Mario Pacco! Quello che è al 31° stage, dai. Esatto, impara a usarlo e ricordati le parole del nostro grande maestro, Obama. Ragazzi, dietro una grande crisi c'è una grande opportunità, ma grande. Schedula, ho il team dei venditori che è giù di morale ed è motivato, ho bisogno di energia, di empowerment. Beh, intanto è necessario iniziare con un'indagine di clima interno e poi una serie di focus group che vadano. Senti, ho l'idea. Weekend adventure, sabato tarzaning, domenica rafting e chiusura con canyoning. Ah, oh, ma non sono un po' rischioso queste cose? Ma no, nessun rischio, anzi piuttosto sul pezzo vogliamo provare l'ultima frontiera del training. Acquario di Genova, vasca con gli squali. Ma vi siete bevuti il cervello? Io non so manco notà. È la volta buona che impari, Centrifuga. Ricorda, selezione naturale. Chi sopravvive, merita. Darwin, 1856, sul pezzo 2009. Allora, no, stavamo sorridendo perché, ahimè, al di là del, diciamo, così, dello sketch, purtroppo queste cose le sentiamo dire, sentiamo fare convegni, ci mancherebbe. Massimo rispetto, lo dico subito già, chi scrive al 349-238-6666, massimo rispetto per chi fa consulenza aziendale, visto che poi è anche il vostro massimo lavoro. Rispetto per i clienti anche, perché massimo... i referenti delle risorse umane sono spesso nostri clienti. Esatto, per cui, voglio dire, per i vostri clienti. Però, insomma, Nicola Giunta, qui c'è qualcosa... non funziona, o meglio, ci si riempie molto la bocca. Io quasi delle volte ho l'impressione, per giustificare anche un ruolo aziendale in una società di servizi in cui però alla fin fine... Certo, ma d'altro canto, scusa, come si potrebbe dire il contrario di mettere al centro dei human capital oppure dei intellectual capital? Cioè, prova a immaginare un amministratore delegato che proprio in questo periodo dice no, invece le persone non sono al centro, non sono importanti, altro che balle, bisogna far funzionare meglio l'organizzazione. Dire che è quantomeno impopolare, anche se purtroppo poi la verità è che c'è una retorica dietro su queste cose. Pesantissima, anche perché questo arriva nel momento in cui scopriamo, qui mi riferisco all'America soprattutto, che il rapporto tra numero uno e salario del dipendente medio è passato da 1 a 43 negli anni 80, a 1 a 270 nel 2008, cioè il rapporto da quanto guadagna il numero uno e quanto guadagna in media un dipendente. Allora, è strano che tutta questa enfasi sulle risorse umane interne, su motivare la forza vendita, nel momento in cui mai i manager di livello, o i top manager, hanno guadagnato così tanto in termini di bonus, e mai così ampia era stata la forbice tra dipendente medio e top manager. Non c'è solo una forbice, ma in realtà le persone stanno guadagnando molto di meno di prima, perché una volta si riusciva con gli incentivi a tirar su qualcosa, adesso gli obiettivi non si raggiungono più, anzi direi che aumentano questi obiettivi, ma è molto difficile raggiungere, infatti ernia iatale è proprio a go-go. Ecco, Andrea Beretta, su questo abbiamo fatto sentire un passaggio in cui le risorse umane poi diventavano il ragazzo al 31esimo stage. Sì. Qui c'è un tema serissimo, perché noi abbiamo sempre difeso una flessibilizzazione del mercato del lavoro in ingresso, perché così si fa. Siamo d'accordo. Il problema è che poi non puoi tenerlo flessibile alias precario a vita, no? No, qui il tema, secondo me, per essere molto chiari e diretti, è che sulla flessibilizzazione siamo tutti d'accordo, il modo in cui è stata utilizzata è, se vogliamo essere forti, deprecabile, altrimenti possiamo essere più soft, nel senso che facilitiamo l'ingresso nel mondo del lavoro di persone giovani, usare tutte le forme di flessibilizzazione per tenere a bagnomaria, come diceva mia zia a Milano, come dire, persone ormai con una seniorità, una professionalità da spendere, è un vero peccato. Chiaro che così succede, il nostro personaggio, l'archetipo nel libro, nel nostro, come dire, radiodramma è Mario Pacco, è che in realtà le persone non vengono valorizzate, non vengono fatte crescere. Ora, Vengono spostati come pacchi. Io, se posso, volevo dire un'altra cosa, sì, curiosa, no? Questo invito poi ad essere anche positivi in tutto questo, certo, a vedere l'opportunità dietro la crisi. È bellissimo perché il pensiero anglosassone ci insegna molto, però Art Spiegelman, che faceva fumetti, diceva: c'è un invito a vedere il quarto di bicchiere pieno, neanche più il mezzo, no? Intanto il bonus me lo porto a casa e vale 230 volte lo stipendio medio. Non andremo molto lontano, io credo, e non solo, sì, io voglio dire. A mio avviso c'è stata anche, ma questo lo dicono anche molti commentatori più esperti di me, c'è stata anche una grande enfasi retorica sullo spirito di squadra, nel momento in cui poi abbiamo visto che, e qui mi riferisco soprattutto al mondo finanziario e a certo tipo di impostazione anglosassone britannica, non all'imprenditore classico italiano da 40 dipendenti che invece condivide molto con i suoi dipendenti, anche perché c'è un rapporto molto più diretto, ma nelle strutture più complesse, grande enfasi sulla motivazione al dipendente, grande menefreghismo quando si tratta di distribuire i bonus, no? Sì, posso dirti la mia, io sono rammaricato perché se penso al 2009 in realtà c'è stata una crisi pazzesca, è stato un momento, come dire, che poteva anche scatenare grandi riflessioni e salti di paradigma, e il dramma vero è quello che io ho visto, è che non è successo niente di tutto questo, cioè ho visto accentuare i vizi, grande efficientamento, quindi saving sui riduzione dei costi, no, qui sono caduto riduzione dei costi e anche delle risorse umane, che in quanto risorse possono essere utili oppure no. Peccato, un'occasione persa dal mio punto di vista. Beh, abbiamo visto che intanto le banche americane, lo so che l'ho già detto altre volte, ma ci torno, hanno già distribuito nel terzo trimestre e accantonato soldi per distribuire bonus di nuovo milionari ai loro manager. Parlo delle banche più coinvolte in una crisi finanziaria. Nicola Giunta, vuole dire qualcosa? Stavo poi aggiungendo anche questo, che il discorso del team sta diventando di una retorica veramente spaventosa, perché nella nostra gag si parlava per esempio di modalità per motivare le persone, soprattutto facendogli fare delle cose assolutamente improbabili, dove questi poveri dipendenti sono chiamati a fare. Noi abbiamo provato a dire rafting, ma è vero, c'è anche di molto peggio. Io ho visto con i miei occhi team building, come si chiamano quelli che hanno studiato tecnicamente, cioè costruzione di team. Ogni tanto qualcuno si fa male, sì, si fa malissimo. Obbligando direttori generali, sì, vice direttori, esatto, quadri a giocare a partite improbabili di beach volley. Però sai qual è la cosa bella di questo straordinario paese? È che poi tutti ci stanno e si mettono in gioco col mutandone anche. Vabbè, noi siamo anche il paese, insomma, di giochi senza frontiere. Però molto ci prostriamo, diciamo la verità. Se il messaggio del delegato ci andiamo tutti a fare rafting. Noi viviamo di questo. E però c'è anche curiosamente l'aspettativa che poi questa cosa qui però non duri un giorno e mezzo. Cioè la richiesta che a noi fanno è: però mi raccomando, non è che poi dopo, quando arriviamo in azienda, svanisce subito quell'entusiasmo, no? Dovrebbe durare 6 mesi, è bellissimo, no? Siccome abbiamo fatto le cotiche e magnato trippa insieme, scusate, adesso vorrei banalizzare, il grande spirito di squadra è commettere. È così, devo dire che già qui emerge che il vostro archetipo, per usare un linguaggio un po' troppo alto, è sicuramente il ragionier Fantozzi, che per primo mostrò in un'Italia molto diversa, perché non c'erano gli inglesismi, però c'erano le grandi aziende, che, e lì era l'esperienza di Paolo Villaggio, se non ricordo male, a Little Cedar, che stiamo tornando a Paolo Villaggio. C'è stato un periodo in cui effettivamente alcune escamotage per motivare le persone, per fare team, potevano funzionare. Adesso ormai non ci crede praticamente più nessuno. E poi si finisce col definire la corazzata Potemkin una cacata pazzesca. Esatto. Allora, altro luogo comune spesso utilizzato, anche qui mi raccomando, vedo i messaggi, un po' di ironia, è quello del cliente. Quindi da un lato si deve motivare il dipendente, che però poi è una risorsa umana che si può tagliare molto velocemente, se non serve, o tenere appunto a bagnomaria interinale per anni, dall'altro c'è il cliente. Questa è una matrice anglosassone, veramente il mondo anglosassone ha un rispetto totale per il cliente. C'è questa formula che ormai tutti usano, il Customer Relationship Management, ossia chi si occupa dei rapporti con i clienti. Chiaramente è importantissimo il cliente se tu fai servizi, se offri un servizio alla clientela, meno il cliente come, diciamo, massa, se tu produci beni intermedi, lì il tuo cliente è più la controparte professionale, ma insomma i responsabili delle relazioni con i clienti si riempiono spesso la bocca della centralità del cliente, il rispetto per il cliente. Uno sketch, anzi un paio di sketch dei ragazzi di Zot anche su questo, il cliente al centro. Allora ragazzi, è partito il nuovo mega progetto internazionale, il cliente al center. Marta Font, per favore un aggiornamento sulla convention di lancio. Il più è fatto, nonostante la fretta, dopo solo 6 mesi di lavoro, sessioni parallele di brainstorming e 32 focus group, abbiamo definito il payoff e il logo della convention, coordinato con l'immagine aziendale. Grande Marta Font, e lo slogan della convention? Customer Center. Oh Gagliardo, ma perché in francese? Vabbè, centrifuga, lasciamo perdere. Quanti sono i partecipanti? Tutti, guarda, 12.000 tra azionisti, fornitori, appaltatori e consulenti, tutti dipendenti, stagisti compresi. Sarà favoloso. No, gagliardissimo, veramente, guarda, i clienti abbiamo invitati? I clienti ci abbiamo pensato, ma non ci stanno. Non c'è posto per loro. Se non ci stanno, non ci stanno. Che ce frega. Non va ragazzi, non va, il call center fa schifo, i clienti si lamentano, stanno in attesa 18 ore e quando parlano con i nostri operatori non risolvono niente. Ecco, è tutta colpa tua Bacco, come al solito. Io al telefono faccio quel che posso per la customer satisfaction. Vabbè, quindi cosa facciamo? E quindi te lo dico io, chiudiamo il call center. Ma come chiudiamo il call center? È la customer satisfaction, il servizio, il cliente? Oh, chiudiamo, ci mettiamo una bella musichetta, tanto, soddisfatto quando soddisfatto, almeno balla. Almeno balla, no, adesso la stiamo buttando a ridere, però anche qui, che cos'è che voi notate, dov'è che si crea questo spartiacque, questo salto tra diciamo l'enfasi che viene posta appunto anche qui, retorica, luoghi comuni, linguaggio stereotipato del cliente, il cliente al centro, e poi invece la difficoltà nell'occuparsi veramente del cliente, delle sue esigenze, dov'è che si crea una divisione, uno iato, sempre per usare termini un po' troppo alti. Patrizia? Beh, probabilmente la frattura sta tra queste dichiarazioni di intenti di una centralità del cliente e poi, nella maggior parte dei casi, un bassissimo ascolto delle esigenze del cliente. Molti meccanismi che sono stati messi su dalle aziende, a cominciare dagli alberi fonici su cui i clienti tentano di arrampicarsi per mezz'ora premi della loro giornata, fino passa, certo. Ma a volte sembra solo un modo di scoraggiare un eventuale reclamo, eccetera. Invece, insomma, noi veramente senza retorica siamo della cultura che per migliorare il servizio al cliente devi solo chiedergli se è soddisfatto oppure no. Sì, le aziende vogliono vendere, diciamo la verità, questo è un po' il punto ancora. Poi qualche azienda c'è che vuole mettere al centro il cliente? No, sì, adesso ovviamente non vale la pena estremizzare, che le aziende vogliono vendere siamo anche tutti d'accordo. C'è un tema secondo me cruciale, no? Che è la miopia o l'orientamento al brevissimo termine, no? Se ti voglio spremere come un limone e alla fine non esci più neanche la spremuta, no? È un poco a cuore la tua soddisfazione, questo è il parere, per cui mercato sì, mercato che da solo è capace di normarsi, regolarsi e crea benessere diffuso, punto interrogativo, anzi lo chiederemmo noi a te che sei più a contatto con chi il mercato lo gestisce. Dubbi seri su una grande passione per la soddisfazione che i clienti che acquistano prodotti e servizi dovrebbero, potrebbero avere. Sì, diciamo che per citare il padre, il guru del marketing, Kotler, insomma, lui ha sempre sostenuto che la differenza tra la prima industrializzazione, quella in cui tu sapevi fare un bene, la Ford T o la Fiat 600, e dove il marketing serviva a piazzare questo bene, a far venire voglia di questo bene, adesso che tu puoi produrre 1000 modelli diversi, sei tu che devi ascoltare quello che vuole il cliente e dargli quello che vuole lui. Ecco, questa è la teoria. Sì, ma nella pratica è complicatissimo. Arrivano migliaia di clienti con esigenze diverse e ci siamo resi conto che questa cosa è impraticabile. Allora le aziende tentano, senza dirlo, di arginare questa iperpersonalizzazione di tutti i servizi. Perché veramente è diventato difficile accontentarlo, un cliente sempre più sofisticato, sempre più esigente. Poi un altro concetto molto interessante che nelle aziende che ha complicato ulteriormente le cose è quello di cliente interno, cioè all'interno dei processi, no? Il collega è considerato un cliente, perciò dopo la centralità, semmai la possiamo ritenere già vecchia, della centralità del cliente esterno, ora ci siamo rinnovati e abbiamo messo al centro un altro cliente che è quello interno. Che già era difficile capire cos'è il cliente esterno, adesso figurati le risorse, le maestranze, i subalterni devono capire cos'è il cliente interno. C'è il delirio in alcuni momenti. Ecco, poi arriveremo all'ultimo passaggio in cui vorrei capire anche però seriamente, visto che si parla sempre di produttività, di efficienza, quanto questi percorsi tutti sommati e questi cortocircuiti tutti sommati creino dispersione di energia, dispersione di risorse e perdita di tempo, detta anche banalmente, ma insomma rendono meno efficiente e meno produttiva un'azienda, perché insomma se tu un po' come per gli imprenditori adempiere alla burocrazia italiana, no? Butti via centinaia di ore l'anno solo per delle pratiche che in altri paesi si riesce a fare in maniera più snella. Però questo vorrei arrivare dopo. Il terzo aspetto che abbiamo toccato nei luoghi comuni, nelle frasi fatte, riguarda le strategie dei manager, le strategie aziendali, come si chiamano in gergo alto, fiumi di riunioni, di briefings, di centinaia di incontri, ma da questo punto di vista delle volte anche qui un salto tra quello che si dice, le slides, le diapositive proiettate e poi la miopia nella gestione del budget. Cucci pane, cucci pisci, sto malocchio ti sparisci. Buongiorno, permesso, Maga Cicce. Buongiorno, come stai? Buongiorno, Maga. Buongiorno, sa che come tutti gli anni siamo qui io e il mio amico Centrifuga per chiederle se ce la fate a raggiungere il budget quest'anno. Ma come ha fatto a indovinare? Maga, sono. E allora, un attimo, vediamo, dai, che ci leggo by occhi. Speriamo bene quest'anno, Maga. Speriamo bene, zio. Guardi, sono usciti i piccioli. I? Ah, è buono, i piccioli. Ma insomma. Ebbene, quindi? Ci posso dire una cosa? Ce la dica. Chi nasce tonno non può morire quadrato. Chi nasce tonno? Non può morire squalo, no? Dottore, è meglio che ci do un aiutino anche quest'anno. Ecco, ce lo dia allora. Cos'è? Sì, guarda, è meglio che vi do la target potion. Ah. Oh, ma questa è grappa. Lo volete raggiungere il budget? E allora prendetela, perché sobri non ce la potete fare. Allora, Centrifuga, è il momento della verità. Dobbiamo far vedere a questi qui che ci hanno comprato di che pasta siamo fatti. Senti che fitte la mia ernia. Sul pezzo, io sono preoccupato per l'acquisizione, non è che ci mandano via. Allora, intanto ci mandano niente, al massimo mandano via te. E poi la tua salvezza sono io, Marco sul pezzo. Tutta questione di tattica. Tattica come il risico? È come il risico, certo. Alla guerra come alla guerra. Primo, mai scoprirsi, che sennò ti impallinano. Secondo, restare immobili come ramarri al sole. Terzo, vogliono la nostra collaborazione, devono conquistarsela. Beh, speriamo bene, poi? E poi, quando si fidano, zac, colpo da dietro la schiena e li fottiamo. Te la do io l'integrazione, Centrifuga. Colpirne uno per integrarne 100. Sarà. Allora, spettacolare la Maga Circe, a cui immagino l'amministratore delegato, insomma Marco sul pezzo, in questi sketch è il direttore commerciale. Ha fatto il CEPOL superiori e l'università, diciamo, appedate nel sedere. Però esiderate il momento in cui loro vanno dalla Maga Circe a chiedere ce la faranno raggiungere il budget e lei gli dà la target potion, la pozione per raggiungere l'obiettivo. In realtà stiamo parlando di una cosa serissima, perché un elemento che a noi risulta è che proprio in quest'anno di crisi molte aziende, sempre nel settore dei servizi, abbiano dato dei target, degli obiettivi, parliamo in italiano, altissimi, e quindi creando il panico anche in chi deve arrivare a quel budget, a quell'obiettivo. Forse sembra quasi vengono poste le asticelle così in alto per quasi non rendere possibile il raggiungimento. Ma insomma, poi alla fin fine questo budget under yanda resta un mistero. Maga. Intanto il budget che è salito di più nell'anno passato è stato proprio quello dei consulenti astrali. È vero. Perché molte persone abbiamo usato anche noi l'astrologa, devo dire, una volta, ecco, per fare previsioni di mercato, sì, e ci ha pure beccato. Per la selezione del personale si usa da molti anni la consulenza astrologica. Ci sono aziende che vanno a Lourdes a farsi benedire il bilancio preventivo. Veramente? Eh sì, non sono superstizioni, cioè forse lo sono, però cioè, non sono leggende. Faccio un colloquio di lavoro e mi chiede che segno sono, che ascendente ho. No, per la questione della privacy non possiamo, però cioè le aziende non potrebbero. vorrebbero, però la data di nascita sta in tutti i documenti, il luogo di nascita pure, insomma è noto che molte aziende usino anche per la però selezione. Però l'ascendente non riescono a saperlo. No, l'ascendente no, però la grafologia, insomma altri mezzi meno scientifici. E infatti, Scusa, quello che sostiene la MAG è che i suoi migliori clienti, dalle casalinghe frustate agli studenti innamorati, invece sono diventati management perché sono i più confusi, perché passano anni molto difficili, allora cercano qualche indirizzo più o meno scientifico su dove andare. Più d'altra parte, che scientifico. D'altra parte, guarda, l'altro giorno ero in una convention dove veniva proposto un piano triennale. Il che è incredibile. Neanche nell'URSS di Stalin piano si riesce a fare triennali di questo non genere. Si riesce a capire come raggiungere il budget che si prefissa, ci si prefigge annualmente, figurarsi proiettarsi in 3-5 anni è impossibile. Sì, l'altra cosa citavi tu, Sebastiano, scusami, questa cosa dell'asticella da alzare, no? A me anche questa, come dire, mi fa venire l'urticaria, perché dico, cioè, ecco, c'è una scarsa confidenza nelle capacità dell'essere umano, no? Te la alzo il più possibile perché altrimenti non ti muovi e non dai il meglio di te. Ora, io non è che abbia, come dire, una visione così positiva della vita, per cui che penso che ciascuno faccia sempre meglio in qualsiasi situazione, ma questa è una vecchissima idea, no? Tu parlavi all'inizio di trasmissione di salto di paradigma, il paradigma qui è sempre uno. Te la metto alta, così sono sicuro che forse faremo, almeno ci avvicineremo agli obiettivi che abbiamo. Ma... sì, che è un po' come dare troppi compiti a casa, immaginando che tu ne faccia almeno la metà, o chiedere a tuo figlio, diciamo, di fare un salto su uno scalino più alto di quanto potrebbe mai riuscire a fare, almeno vedo che qualcosa devi imparare. Cioè, c'è come l'idea che dare degli obiettivi, non voglio usare la parola target, raggiungibili, sia quasi fare un favore al tuo dipendente, al tuo collaboratore, non capendo che delle volte, se l'obiettivo è realistico, significa anche farlo vivere con minor frustrazione, con un senso anche di minor insuccesso. Comunque si va, guarda, da un estremo all'altro, perché per molti anni i cosiddetti MBO, che cioè, vengono, sono diciamo il sistema obiettivi. Di obiettivi dati essenzialmente ai dirigenti, piuttosto che ai manager, insomma, di alto profilo, sono regolarmente raggiunti da tutti. Quindi è vero. Regolarmente c'erano anni in cui tutti raggiungevano gli obiettivi. Tutti. Adesso invece esattamente l'opposto. Erano bravi loro, erano bassi gli obiettivi. Ecco appunto. La soluzione è stata, esatto, darli a tutti molto più alti in modo che non vengano raggiunti. Esatto. Io, se posso anche aggiungere un pezzo di riflessione, ora non vorrei che sembrasse banale, no? Questo tavolo nella riflessione. Perché no, non mi sembra. Lo dico perché si parla molto di complessità. E quindi di un contesto che non è più complicato, in cui le soluzioni non sono facili, però c'è da una parte la complessità e dall'altra una carenza e una pochezza, questo è il mio parere personale, nel tentativo di trovare, no? Non dico soluzioni che confezionate diano con l'algoritmo la ricetta perfetta, ma almeno che tengano conto di un contesto che è incasinato e complesso e creino le condizioni per una migliore soddisfazione delle persone e dei clienti. E no? Qui arriviamo al punto di fondo, questa è un'idea assolutamente mia, quindi me ne assumo ogni responsabilità. A mio avviso, invece, una società fatta di servizi in cui, e qui infatti non stiamo parlando dell'industria classica, nel senso manifatturiero, dove le logiche sono ancora diverse, ma io parlo dell'industria classica dei servizi, servizi finanziari, servizi al cliente, servizi informatici, servizi telefonici, quello che volete voi, in cui le macchine fanno praticamente tutto, devi trovare anche dei ruoli alle persone, e lì iniziano anche voi come consulenti, quindi faccio una critica anche alla vostra professione, avete contribuito non poco a enfatizzare, a mio avviso, alcune figure, alcuni percorsi, penso a tutta quella teoria che va sotto il nome di LPN, può essere? PNL, sì, hai solo invertito, certo, sì. PNL, che va benissimo, però anche che lì sarebbe la programmazione neurolinguistica per capire come motivare, va bene, tutto va bene, ma insomma ci marciano un po' tutti con tanta retorica, forse anche per giustificare i proposti di lavoro. E l'ultimo pezzo che abbiamo preso dei vostri sketch riguarda proprio la mitica convention, ma soprattutto a mio avviso riguarda la miopia di chi si occupa di una cosa, ormai essendo completamente avviluppato, involuto, diciamo, completamente annichilito da quella che è il suo compito, si dimentica di guardare cosa succede all'azienda, cosa succede attorno, se la società sta crollando su se stessa o se invece ci aspettano anni di crescita dei bilanci, dei conti, insomma un guardarsi la punta dei piedi che purtroppo è molto comune. Di questo parleremo, sempre cercando di farvi, se non ridere, almeno sorridere, dopo le informazioni meteo e la pubblicità. Focus Economia. E allora, sempre sui luoghi comuni, sugli elementi poco produttivi, su una società di servizi in cui ognuno deve darsi un ruolo, un tono, insomma, far finta delle volte di fare qualcosa, stiamo buttandola anche un po' a ridere, ma insomma, c'è un emblema di tutto questo che adesso vi presentiamo, la convention, la mitica convention, quello che diventa, per chi poi ne è responsabile, il centro dell'universo. Non avete idea di quanto sto lavorando per la convention rimotivazionale dei dipendenti. Il mondo cambia, cambia anche tu. E che non ci immaginiamo? Non posso venire a sapere 3 giorni prima della convention che siamo stati comprati dal nostro più odiato concorrente e che in quell'occasione si darà l'annuncio. È un dramma! Ma Font, ma cosa ti angusti? Abbiamo un titolo bellissimo, il mondo cambia, cambia anche te. E poi ogni acquisizione è una grande opportunità. Certo, alcuni vanno su, altri vanno giù. Tu centrifuga, per esempio, dove pensi di andare? Che ne so, a casa? Appunto. Come a casa? Queste cose le so, non sono nata ieri, ma se avessi saputo prima avrei coordinato il colore dei tovaglioli del buffet al logo dei nuovi proprietari. Che figura ci facciamo? A Font, ma lo sai che sono veramente preoccupato questo fatto dei tovaglioli, ammazza. Non è possibile, centrifuga, non è possibile. Ho la mail intasata un'altra volta. E sarà perché tutti te mettono in cicci. Ma cosa cicci? Cos'è cicci? In cicci, in copia conoscenza. In cicci! E comunque risolviamo questa faccenda una volta per tutte. Che ci posso fare? Funziona così. E mail se moltiplichino, se riproducono. Sì, certo, come un virus, E bravo. E in più te mettono in cicci e te fanno vedere che lavorano. Vabbè, centrifuga, insomma, cerca di far qualcosa per piacere. E mo' gli mando una mail agli informatici e magari risolviamo, Ecco, bravo, mi sembra un'ottima idea. E non dimenticarti di mettere in copia me, la Font, Paragone, Bigazzi, Fedel, Margiotta, Luciani, Ciari, Pacco, Lalla, insomma, tutti quelli che devono sapere. Tutti in cicci. Allora, no, sto ridendo per i cicci, ma soprattutto anche per la mitica responsabile della convention aziendale, che nel momento in cui il gruppo viene comprato dal loro più agguerrito e odiato concorrente è distrutta perché i tovaglioli non hanno il logo del concorrente. Purtroppo, cioè rido, ma ahimè ho visto con i miei occhi scene anche peggiori, per cui questo è il motivo per cui rido. Allora, anche qui, col massimo rispetto per ogni figura professionale, come sempre, e anche chi scrive, potremmo fare una cosa simile anche sul mondo dei giornalisti, qualche spunto ce l'avrei sulle logiche, cortocircuiti, gli stereotipi aziendali dentro i giornali o i media in generale, e quindi volentieri raccolgo l'invito. Però a me sembra che in questo modo, soprattutto con la maga, soprattutto con la convention, emerga come da un lato c'è una parcellizzazione, una divisione tra lo spirito comune di un'azienda e quello che tu puoi fare nel concreto, per cui questa qui si preoccupa che i tavoli, che i plassé, che i fiori, che le hostess, e tu insomma, con una dispersione di risorse, perché io capisco l'aspetto motivazionale, ma insomma, quando lavoravo per una grande televisione americana a Londra, io mi ricordo che noi avevamo degli acquari con pesci che costavano milioni di vecchie lire ognuno, perché insomma il fondatore di quel importante gruppo finanziario giornalistico diceva che aveva saputo che l'acquario rilassa il dipendente, e venivano puliti la domenica, pagati da operai specializzati, pagati con straordinario, mentre tu lì che lavoravi 9 ore e aver avuto qualche centinaio di pound in più dell'acquario. Non vi dico cosa volevano fare alcuni soggetti di questi acquari, perché insomma siamo in una fascia protetta, per cui voglio dire c'è il rischio anche di un effetto boomerang e di sprecare energia. Ma in ogni ruolo c'è questo rischio. Certo. Cioè il ruolo, appunto, quando le organizzazioni sono divise in caselline, ognuno cura il suo piccolo spazio e non ha spesso la voglia o addirittura l'intelligenza di alzare lo sguardo e vedere le cose da più in alto. Ma questo qui capita a tutti, sia nella nostra vita privata, no? Gestire l'amministrativo, il dettaglio quotidiano, spesso ci fa perdere di vista in che epoca della vita ci troviamo. Sì, mi verrebbe voglia di dire che l'operaio metalmeccanico o quello che sul cantiere ha meno sprechi, nel senso della sua funzione, cioè ci sono anche delle funzioni, o l'infermiere che è in turno in sala operatoria o il chirurgo che deve operare. Cioè non è vero che tutti proprio i lavori portino sempre una zona. A mio avviso nel mondo dei servizi questo rischio è più alto perché è più indefinito. Perché più futili e più superficiali possono sembrare i dettagli. Sì, in effetti il personaggio che noi descriviamo viene da un mondo in cui il dettaglio ha fatto l'immagine, non si può cambiare schema culturale improvvisamente. Cioè anni investiti sull'immagine non possono sparire ora improvvisamente a favore del pratico più organizzato. Beh, però abbiamo raggiunto anche livelli di raffinatezza straordinaria, cioè io penso che quell'aneddoto che raccontavi, se lo trasferito in un'azienda italiana, è che a seconda di dove sei ti metto dei pesci diversi, cioè a seconda del piano che hai ti do il pesce rosso comune oppure addirittura il pirana o lo squalo. Un po' come le agendine in finta pelle per l'altezza della pianta, l'altezza della Kenzie. Comunque le convention sono veramente un luogo dove chiunque dovrebbe poter accedere soprattutto almeno una volta al mese per rendersi conto, perché insomma, dell'effimero. Qualche aneddoto possiamo raccontarlo, no? Voglio dire, in questi anni intanto ci siamo anche noi molto guardati all'estero, e quindi quasi tutte le convention in Italia vengono fatte chiedendo un abbigliamento smart casual, urban casual, cioè non mi venire più incravattato come un pinguino. E io però 10 giorni fa in una convention dove questo era l'invito, ma la gente era tutta come una sfilata di moda. Ho chiesto il perché, è stato bellissimo, mi dicono, e ci mancherebbe altro, perché l'invito è chiaro, ma tutti noi sappiamo come si veste la D. Esatto. Tutti come la D. L'amministratore delegato. L'amministratore delegato, questa è una cosa straordinaria. Smart casual, urban casual. E vabbè, il tema che mi interessava toccare nel concludere questa puntata, che spero abbia fatto anche sorridere oltre che riflettere, riguarda le soluzioni, visto che di lavoro voi i consulenti fate, e i consulenti dovrebbero trovare soluzioni più che porre problemi, ma anche il rischio, visto che il rischio se no è che tutte queste logiche che noi abbiamo raccontato come degli sketch, ripeto, l'archetipo resta il ragionier Fantozzi, portino a distruzione di valore, a spreco di risorse, quindi a inefficienza, scarsa produttività dentro un posto di lavoro. Cioè l'obiettivo è quello di creare maggior team, maggior senso di gruppo, maggior rispetto per il cliente, migliore visione di budget, in realtà poi capita l'esatto contrario, o comunque si spreca energia per nulla. Io, se posso, tre cose mi vengono in mente, sì, in croce, che non ho visto quest'anno. Si è riso troppo poco, e qualcuno potrebbe dire cosa c'era da ridere. Beh, 20 anni che non ridiamo più e il risultato non è stato un granché. Due, legato a questo, si prende moltissimo sul serio. Tutti si prendono tantissimo. Sembra che ogni progetto, ogni piano industriale, ogni slide, ogni, come dire, declaratio, come dire, attenzione, c'è la grande sfida. No, troppo sul serio. E la terza cosa, ahimè, di cui mi rammarico, è un cinismo diffuso. È come se tutti noi dai 20 agli 80 anni le avessimo già viste tutte, non crediamo più niente, e questo in realtà credo che sia un grande peccato culturale. Ne aggiungo un'altra, guarda Andrea, che trovo manager paralizzati dalla paura. E qui tocchiamo un tema bellissimo, ma qui mi fermo. Assolutamente paralizzati e quindi arramarrati, come si dice in Zot, in modo tale che qualunque cambiamento non li coinvolga negativamente. Però così, andando avanti, in questi momenti di crisi bisogna approfittarne, no? Per essere più, sì, anche perché cambiare, io se lo dico, è molto facile fare i giornalisti quando hai tante notizie, cioè è molto facile fare focus economia quando i mercati esplodono verso l'alto, crollano verso il basso, è più difficile trovare notizie quando ci sono meno notizie in giro. Allo stesso modo è facile fare il manager quando tutto cresce e le cifre, le figures sono sempre a due, ed è più difficile, o meglio, fai il tuo lavoro quando riesci a fare il manager in una situazione di difficoltà. Le soluzioni però non me le avete ancora dette. La risata? Io ho detto la risata, io direi, come dire, una capacità di guardare fuori da quello che succede in questo paese, che nonostante un'esterofilia apparente non c'è. Tre, può sembrare paradossale, credere veramente nel mercato. Io questa cosa non la vedo diffusa né presente. Ecco, io vi do lo spunto per un nuovo sketch, perché in questo, diciamo, parlarsi addosso, perché poi delle volte tutto gira attorno anche a questo, a questa serietà. Mi è piaciuta molto la tua definizione di persone che si prendono troppo sul serio. Quando io sento in pubblicità quello che si chiama creativo, mi viene in mente la battuta di Beppe Grillo, ma Dio, cos'è, un ragioniere, un geometra, e così come, sì, sì. Così come ogni tanto tu parli con delle figure professionali che sembra che per raccontare appunto una convention abbiano fatto un intervento a cuore aperto, abbiano costruito un nuovo satellite, insomma un po' più di modestia nei ruoli. Potremmo aprire un fronte sulla femminilizzazione dei luoghi di lavoro e dei servizi, ma questo ma non, lo facciamo. Non lo facciamo perché ho molte ascoltatrici femminili. Invece vi suggerisco. Però possiamo tornare. Io suggerisco anche. Sull'attenzione al dettaglio, sull'attenzione anche a una sensibilità diversa. Non chiedete consigli ai consulenti su come cambiare il mondo, perché tu lo sai che noi consulenti poi diciamo sempre sì, questo è l'altro grande problema. Perché anche voi avete i clienti. Anche noi. E il consiglio che volevo darvi era quello di fare uno sketch su questa stanchezza da lavoro, l'oberazione da compiti. Cioè, io una cosa che noto sempre a Milano è che se tu per caso sei stanco lo dici, magari un aperitivo o una cena, sono stanco, sono stanchissimo, la risposta è sempre non me ne parlare. Facciamo a gara. C'è mai nessuno che dice, ma io invece no, guarda, l'ho fatto 4 ore, ho guadagnato il doppio di te e sono più figo. Non me ne parlare. Ci si vergogna a essere anche riposati. A questo livello siamo arrivati. Grazie a Nicola Giunta, grazie a Andrea Beretta, a Patrizia Sorrenti e a Chiara Romersa. In bocca al lupo con i personaggi. Grazie, di Zot. Grazie a te. Arrivederci. E adesso cerchiamo di recuperare un po' di serietà. Ammesso e non concesso che questi temi non fossero seri, a mio avviso si perde molto tempo con la burocrazia, ma anche molto tempo in certe aziende con così, con obiettivi, con un girare a vuoto delle volte senza capire poi che cosa produci. Comunque, dicevo, vorrei recuperare un po' di serietà, perlomeno quella seriosa. E infatti chiudiamo in bellezza? Bah, forse sì, forse no, chiudiamo con le borse. E quindi che anno è stato il 2009 per le borse? Non è stato un anno così male, sono tutte in rialzo le borse da inizio anno. Che cosa potrà capitare nel 2010? E quindi dopo le informazioni per chi è in viaggio, i mercati, per chi avesse sofferto oggi con le borse chiuse, di una certa astinenza. Focus Economia. E qui siamo veramente agli ultimi minuti di Focus Economia del 2009. Dopo aver scherzato con gli autori di Zot, insomma, per ridere, per chiudere l'anno anche con un po' di sorriso, visto che quest'anno è stato tutto tranne che un anno in cui sorridere sul fronte dell'economia e della finanza, adesso, come promesso, diamo qualche anticipazione su quelli che potranno essere i temi di borsa del 2010, ma soprattutto anche una valutazione su che borsa è stata. Saluto e ringrazio quindi Marco Liera, responsabile di Plus 24 del Sole 24 Ore. Marco, buonasera. Buonasera a voi. Ecco, visto quello che abbiamo appena detto con i ragazzi di Zot, non usiamo inglesismi, mood, frasi fatte e quant'altro, perché abbiamo visto che poi tutti ci cadiamo prima o poi nel linguaggio aziendale. Però, se io guardo i dati, qui torniamo a essere seri, perlomeno in questi ultimi minuti, vedo che da inizio anno Londra ha guadagnato il 20%, Milano pure, Parigi più 22%, Francoforte più 25%, Mosca addirittura ha fatto un più 120%. In America la borsa, il Dow Jones, ha fatto più 20%, il Nasdaq più 45%, Tokyo più 20% e poi meglio ancora Shanghai più 75% e Hong Kong più 50%. E dire che l'anno era iniziato con tonfi, crolli in alcuni casi fino al minimi toccati il 9 marzo. Marco. Sì, ancora una volta i mercati hanno dimostrato che amano molto gli eccessi. C'è stato un eccesso prima, ricordo il massimo toccato nell'estate del 2007, che probabilmente non era supportato da ragioni concrete, e poi via via una delusione dietro l'altra con la crisi dei mutui subprime, con il crack Lehman, e poi a marzo appunto le quotazioni si erano fortemente scontate, però in quel momento probabilmente molto po', non so quanti investitori si erano resi conto di questo, è che chi ha resistito e magari pazientemente aveva una quota di azionario e non ha mollato al momento della crisi, ecco che poi ha visto recuperare i propri investimenti. Peraltro stiamo parlando di investitori che devono mantenere ancora adesso, ancora in questa situazione, un'elevata propensione al rischio, perché assolutamente l'investimento azionario è adatto a chi ha la capacità di tollerare perdite notevoli del 20, 30, 40%, come abbiamo visto in questi anni. Questo per quello che riguarda il 2009. In realtà, se si va a vedere come sono messe le borse da quando c'è stato il crack di Lehman Brothers. Beh, insomma, dal 12 settembre 2008, quindi dall'inizio della parte più virulenta della crisi, siamo ancora sotto. Milano è sotto di un 17%, Londra invece è riuscita a tornare in pareggio. Il meglio ha fatto il Nasdaq più 1,2, in realtà però l'indice Dow Jones è ancora sotto di un 7% e la Standard & Poor's 500 è ancora sotto di un 10%. Questo secondo te vuol dire che c'è ancora spazio per recuperare i livelli di settembre 2008? Sì, o non ma li vedremo più in 10-20 anni, i bilanci non si possono trarre ora perché le ferite lasciate dalla grande crisi sono profonde, l'economia reale deve ancora confermare ciò che di buono hanno fatto vedere i mercati azionari e quindi bisogna avere pazienza, chi non ha questa pazienza può tranquillamente starsene alla larga dagli investimenti azionari, ci sono gli investimenti obbligazionari a reddito fisso garantiti che sicuramente possono rispondere meglio alle attese di chi vuole stare tranquillo. In realtà, Marco Lire, qui veniamo proprio al 2010, c'è chi dice che, attenzione, forse hanno già corso un po' troppo queste borse e le scuole dei pessimisti si dividono in due, cioè quelle che dicono l'euforia finirà insomma entro fine gennaio, quando insomma si tornerà al lavoro settimana dopo la Befana e i profitti portati a casa porteranno a vendere, a chiudere molte posizioni, come dicono gli operatori, e c'è chi invece dice no, attenzione, arriverà diciamo da metà del 2010 in poi, perché aprile arriveranno i conti trimestrali dei grandi colossi e lì si capirà quanto resta del danno nella pancia dei bilanci societari. Che ne pensi? Che è più facile indovinare come sarà la vendemmia 2010, visto che siamo parlando... Te lo dico io allora, che sarà buona, visto che di queste cose mi occupo. Ecco, forse perfetto. Ecco, ed è con altrettanta certezza che io posso dire che sono invece assolutamente incerto su quello che potrà accadere nel corso del 2010, perché ancora l'economia deve dimostrare, come dicevo prima, di essere deve confermare ciò che hanno fatto vedere i mercati azionari, che sono stati sostenuti in questi mesi dalla liquidità che è stata fornita in abbondanza dalle banche centrali e dai governi. Perciò le banche di investimento, basta guardare ai profitti di Goldman Sachs e compagnia, hanno potuto approfittare di questa situazione congiunturale molto favorevole. Indebitarsi a breve termine con tassi praticamente vicini allo zero e poi investire in attività più rischiose e quindi trarre dei profitti estremamente facili, che è quello che è successo. Abbiamo visto le trimestrali già dal terzo trimestre dei colossi americani, tu citavi Goldman Sachs ma non è l'unica. Il 70% di questi utili mostruosi, se non ricordo male 3 miliardi e mezzo di dollari, tutti dovuti al 70% dovuti da attività di trading, cioè di compravendita, e lì torna anche l'aspetto più speculativo e rischioso, e quindi da un lato si facevano prestare i soldi dai governi a tasso zero come tu ricordavi, dall'altro tornavano a investire in prodotti derivati e quant'altro, inutile nascondersi dietro un dito. Però volevo dare un po' di serietà a questa... Avremo l'11 di gennaio di nuovo la nostra astrologa in diretta, per cui non voglio che tu le rubi il posto, Marco. Però in realtà è vero forse che coi bilanci del primo trimestre del 2010, quando vedremo in molti colossi anche bancari la fine dell'effetto dei fondi governativi, i TARP in America ma anche in Germania, Francia e Gran Bretagna, lì forse si potrà capire quanto ha fatto male e quindi quanto continuerà il dolore causato da questa crisi? Ma non sono tanto i fondi federali che sono stati garantiti in abbondanza alle banche negli Stati Uniti e statali in Inghilterra che hanno determinato queste politiche espansive. Le politiche espansive sono state determinate dai tassi estremamente bassi. Quindi fin tanto che permarranno questi tassi così convenienti, le banche di investimento, gli hedge fund continueranno ad avere convenienza a speculare in questo modo e quindi probabilmente, ma non è sicuro questo, continueranno a sostenere le quotazioni di attività rischiose come i mercati azionari, le obbligazioni societarie e quant'altro. Però questo è determinato da politiche espansive delle banche centrali, che in questo momento hanno una gran paura di cominciare a rialzare i tassi nel momento in cui l'economia reale non avrà dato ancora veramente segnali di svolta. Quindi mi sembra di capire che se io ti dico, se ti chiedessi se sei più d'accordo con chi dice che le borse faranno in media un più 5% o un più 10%, questi numeri ce li giochiamo all'otto, ma non mi vuoi rispondere. Ma io amo vedere la borsa governata dagli eccessi, perché questo è molto più vicino alla realtà. Quando uno dice la borsa il prossimo anno starà tra più 5 e meno 5, temo che purtroppo rischia di sbagliare, perché i mercati azionari ci hanno abituati a fare o meno 20 o meno 30 o più 40 o più 50. In un anno in cui comunque, hanno ragione anche gli ascoltatori, il vero botto l'hanno fatto in senso positivo le commodities, lascia stare il petrolio più 120%, l'oro più 26%, lo zucchero più 165%, succo d'arancia più 90%, caffè più 30%, cacao più 30%, solo i cereali sono calati. Vorrei chiudere, Marco Liera, con la domanda di fondo: è però possibile che un'economia stenti a trovare la strada della ripresa, lo faccia in maniera molto molto timida, e le borse continuano ad avere rialzi così forti? A lungo andare non è possibile, però sapete, qua ci sono territori inesplorati da esplorare, i mercati ci hanno sempre abituati a grosse sorprese, quindi nessuno si aspettava 10 anni fa che la decade tra il 2000 e il 2010 sarebbe stata la peggiore decade della storia delle borse internazionali da due secoli a questa parte, quindi ecco, non mi meraviglierei se i prossimi 10 anni invece si riveleranno molto positivi, ma questa non è una previsione, perché come dicevo prima le borse amano gli eccessi, quindi alla fine la probabilità che dopo un decennio bruttissimo ci sia un decennio estremamente positivo magari è più alta della probabilità che poteva esserci 10 anni fa rispetto alla prospettiva di un decennio di borsa mediamente positivo. La borsa, ecco, non amano mai stare nel mezzo, sono sempre molto speculative, quindi si adattano a investitori che o hanno molta pazienza oppure sono in grado di tollerare delle grosse perdite che oramai sono forse ampliate dal ruolo che le investment banks e gli hedge funds hanno assunto in questi anni. E con questa analisi delle borse, in politica si direbbe non centriste, quindi non amanti, diciamo, estremiste. Borse estremiste. Noi chiudiamo veramente, per quello che riguarda questo programma, il 2009. Anno difficile, ma veramente vorrei evitare ogni retorica, quindi auguro buon anno a Marco Liera in collegamento con noi. Grazie responsabile. A te e a tutti i radioascoltatori, Sebastiano. Tanto ti beccheremo o io, Deborah Rosciani, anche nel 2010. Un buon anno a Barbara Bianchi, Gaia Romani e Mauro Del Corno per l'assistenza anche quest'anno in redazione e poi in studio, e veramente a tutti voi l'auguro di un 2010 comunque migliore di come è stato il 2009. Noi nel 2010 ci risentiremo lunedì 11 gennaio in poi con un'altra puntata di Focus Economia.